mi guardi. Traversando tutto l'Illinois. Voglio sentirvi cantare il Dada Umpa. Valicando il Tennessee, senza scalo fino a qui è arrivato il Dada Umpa. Io sono Ellen. Non so, ci licenzieranno. Basta, ma magari andiamo a Sanremo. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Occhi neri e distanti, calamita e diamanti. Sono ormai milioni nel mondo, decine di migliaia ogni anno in Italia, le persone che si sottopongono ad intervento di chirurgia refrattiva per correggere difetti visivi e buttare gli occhiali alle ortiche, o quasi. Se l'idea vi alluzza, restate, perché oggi vogliamo darvi tutte le informazioni possibili per scegliere bene, capire se l'intervento fa il caso vostro oppure se, come si dice, meglio passare la mano. Saremo molto precisi, quindi chirurgia refrattiva, se, come e quando. Dimenticavo, se vi siete già operati e magari non siete soddisfatti, chiamateci, la vostra esperienza ci interessa molto. Naturalmente, anche se l'intervento è andato bene e siete pienamente soddisfatti, contenti di averlo fatto, anzi lo consigliereste ad un amico. 800 24 00 24, ci state già scrivendo al 349 238 6666. Oggi qua in studio con noi il professor Paolo Vinciguerra, responsabile dell'unità di oculistica all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. E ci vogliamo vedere bene, ci vogliamo vedere più chiaro anche nella pagina di Denari, che oggi vi aspetta nella seconda parte della trasmissione a partire dalle 11.45. In particolare, sappiamo che tanti a casa vogliono vederci un po' più chiaro su temi economici e finanziari, temi che interessano tutti e vanno raccontati in modo semplice. Questo è l'obiettivo per cui, come sapete, noi abbiamo iniziato a Investire Informati, che da qualche settimana va in onda ogni giovedì, ma questo è l'obiettivo anche del Giornale della Famiglia, questa nuova iniziativa editoriale del Sole 24 Ore. Lo trovate ogni giovedì con il quotidiano, e anche noi a Cuore Denari ne parliamo. Il numero di domani è dedicato alle valute: euro, dollaro, franco svizzero, ne abbiamo tantissime, ma i movimenti delle monete cosa cambiano davvero nella nostra vita di tutti i giorni? Se c'è una notizia che non vi è tanto chiara, se un vostro investimento, conto in banca o bene depositato è in qualche modo legato ad una moneta straniera, potete iniziare a chiamarci fin d'ora all'800 24 00 24. Dunque, Ralph mi ha detto che ti viene il mal di testa quando leggi, è così? Sì, è così. Adesso vedremo quello che si può fare. Dunque, coraggio, Fonzi. È sempre la seconda riga. Avanti. A, L, M, P, Q, P, T. Perfetto! Adesso con il destro, la riga successiva, per favore. Non ci riesco. Credo di aver capito quello che hai. Il tuo problema è molto semplice. Vedi, l'occhio destro è più debole del sinistro e questo squilibrio provoca il mal di testa. Tieni, ecco qua. Devi mettere quelle gocce negli occhi, Fonzi. Un po' di gocce e basta? Per il momento, finché non saranno pronti gli occhiali. Si può vivere benissimo con, ma a volte si preferirebbe vivere senza. Parlo degli occhiali che molti italiani, oltre a Fonzi, utilizzano per correggere i difetti visivi: miopia, astigmatismo e ipermetropia. Non ho inserito nell'elenco la presbiopia. Secondo voi mi sono sbagliata o c'è una ragione? Ditemelo al nostro numero verde 800 24 00 24 e nel frattempo raccontateci se portate gli occhiali, le lenti a contatto, per quale ragione, quale difetto dovete correggere, e magari se state pensando di correggere il vostro vizio refrattivo affidandovi alla chirurgia. Abbiamo il piacere di avere qui con noi, come anticipato, un grande esperto, pioniere della chirurgia rifrattiva in Italia, ma anche nell'utilizzo del laser ai cimeri e della fotoablazione terapeutica come alternativa al trapianto in alcune patologie corneali e anche in caso di ritrattamenti refrattivi. È con noi il professor Paolo Vinci Guerra, responsabile dell'unità di oculistica all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Professore, buongiorno, siamo molto contenti di averla qua. Buongiorno a tutti voi. Benvenuto. Sempre accolti come amici, si sta bene. Ci fa molto piacere. Professore, la chirurgia refrattiva, che come dice il nome è quella branca della chirurgia che ha proprio come obiettivo la correzione dei cosiddetti vizi refrattivi, negli ultimi anni ha registrato progressi straordinari in termini di precisione operativa e anche di risultati post-operatori. Ma ci aiuta a capire bene la portata di questa evoluzione spiegandoci anche le ricadute in termini di sicurezza e di qualità visiva e di qualità di vita anche per il paziente? Ma io direi che sostanzialmente quello che è cambiato è questo. Quando si è cominciati nell'88, il laser doveva mirare a correggere la miopia allora. Poi è arrivato l'astigmatismo e per ultimo l'ipermetropia. Ma per darvi l'idea, nell'88 nei congressi internazionali si misuravano i risultati quanto fossimo stati precisi più o meno 4 diottrie, cioè più o meno 4, un po' spannometrico, direi. Andava molto bene. Quindi ovviamente ci si rivolgeva a difetti enormi di cui ci si accontentava la riduzione. Poi man mano è cresciuta, si è arrivata a una buona precisione, ma ci si è resi conto che il punto non era quello. E io qui vorrei introdurre questo aspetto. Molta gente che è stata operata e che non è rimasta soddisfatta perché magari è operata con tecnologie più antiche, mi dicono: vorrei tornare con gli occhiali. Perché? Perché non ci vedono bene. Allora nessuno negozia l'aspetto estetico per vederci male, quindi l'obiettivo deve tornare centrale, il vedere bene, la qualità. E la qualità come la raggiungiamo? Se miriamo a non correggere esclusivamente il difetto, cioè miopia, astigmatismo, cioè a mirare, a pensare all'occhiale come l'oggetto. Io scherzando dico ai miei pazienti sempre: ma voi l'occhiale ve lo potete togliere, già ora. Sì, ma non ci vedo. Ma allora non sei venuto per togliere gli occhiali, sei venuto per vederci bene, che è un altro mondo. Allora, su questo cosa bisogna mirare? Che bisogna ancora fare un'analisi ottica precisa del tutto il sistema. Il sistema non è soltanto rimodellare la cornea, della cornea anteriore, c'è una faccia posteriore, c'è il cristallino, la lunghezza dell'occhio, la forma che ha la retina, cioè tutte queste entrano in un calcolo complesso che si chiama aberrometria, cioè misurare le qualità ottiche. Quindi quando io miro a correggere il difetto, devo pensare a ottimizzare tutti questi parametri affinché il paziente veda meglio. E non è infrequente che dopo aver corretto il difetto, e io chiedo: come siete? Siete contenti? Ah, ci vedo molto bene. Ci vedo meglio di quanto vedessi prima con le lenti a contatto, che è una bella gara. Tanti anni fa un collega svizzero molto preciso mi diceva: ma sai, noi misuriamo oggi i nostri risultati, cioè io vedevo 10 decimi con gli occhiali e ne vedo 10 dopo. Ma in effetti, se tu misuri una persona con la lente a contatto, vede sempre un po' meglio che con gli occhiali, perché ha l'immagine ingrandita. Allora, se tu misuri uno contro l'altro, hai già messo in difficoltà, cioè non è precisa. Tu dovresti misurare uno verso... Allora, quando ottieni un risultato migliore delle lenti a contatto, vuol dire che sei stato veramente bene. E questo lo otteniamo solo come? Se pensiamo a fare dei trattamenti personalizzati, cioè un trattamento che non corregga, come diciamo, solo questo, che non ottimizzi soltanto, ma che pensa di integrare questa forma ottica dentro l'anatomia della cornea. Perché noi possiamo ottenere un buon risultato immediatamente, ma se non è integrata nell'anatomia della cornea, dopo qualche mese il modello riparativo la modifica nuovamente e il nostro progetto non sarà più quello, è cambiato. Quindi la gente mi dice: vedevo bene per due o tre mesi, adesso ci vedo un po' meno bene. E questo già invece, un fallimento. Quando va bene, migliora costantemente. I nostri pazienti ci dicono: ci vedevo bene 2 mesi dopo, ma a 6 mesi, ma adesso ci vedo molto meglio. E un anno mi dicono: ci vedo molto meglio. Allora, quindi scatta la convocazione, Deborah, 800 24 00 24, portate gli occhiali, siete state seriamente pensando di affidarvi al laser per eliminarli? Allora, oggi ci pensiamo insieme, facciamo un bilancio dei pro e dei contro, perché la chirurgia refrattiva, professore, è uno degli interventi più praticati, ma è sempre un intervento che deve essere eseguito anche in base a delle indicazioni precise. Chiamateci, scriveteci, l'invito naturalmente rivolto anche a chi l'intervento lo ha già fatto. Come ci vedete, siete soddisfatti o invece l'intervento non è stato all'altezza delle aspettative e perché? Professore, noi oggi vorremmo entrare virtualmente nel suo studio, portiamo con noi i nostri occhiali, le nostre lenti a contatto, i nostri dubbi, le nostre speranze, le nostre certezze e anche le paure. Ci aiuta allora a vederci chiaro da che cosa si parte, a quali domande dovremmo rispondere e quali informazioni ci verranno richieste per cucirci questo abito su misura? Dunque, la prima cosa che si fa, oltre alla raccolta generale della storia del paziente, e che non voglio annoiare gli ascoltatori che conoscono, ma c'è tutta una serie di esami, per cui un esame di questa preparazione dura un paio d'ore. Già uno dalla misura del tempo capisce. Questa è una prima indicazione. Sì. Quanto tempo l'oculista vi il percorso all'interno, perché poi naturalmente ci sono parecchie più figure. Perché dopo. Poi noi facciamo alcune misurazioni prima e dopo la dilatazione della pupilla, perché il sistema ottico cambia e la refrazione, cioè l'occhiale che uno ha prima e dopo la dilatazione, cambia. E io voglio sapere, nella seconda ipotesi, che è vicina a quella notturna, come vede la sera, e ottimizzare e ragionare. Ma al di là di questo, noi siamo entrati in un'epoca di robotica un po' dappertutto. Quindi tanti più dati acquisiamo, tanti più possiamo portare nel nostro sistema di calcolo, tanto più istruiremo il nostro laser in maniera precisa. È tutto là. Il laser ha una precisione, professore, che alla mano umana sarebbe impossibile? Sì, vero? Perché porta via su un'area di 0,4 micron, può portare via di tessuto 0,2 micron. Quindi voi pensate che lavora a 1050 Hz il nostro, quindi significa 1050 volte al secondo, portando via in ogni punto una quantità così. In un punto di 0,4 micron ne porta via 0,2, e un capello è spesso 18-20 micron, così uno ha un'idea di... È un fustaccione il capello a confronto. Esatto. Allora, abbiamo già gli ascoltatori esatto. In linea, parleremo naturalmente della selezione del paziente, vero professore? Perché sì. Non tutti sono idonei e a questo. E c'è chi solleva la questione dell'età, se vale la pena ad un certo punto della vita comunque sottoporsi ad una soluzione di questo tipo oppure, come dire, lasciar perdere perché, che ne so, dopo... Un certo punto, una soglia anagrafica non è naturalmente risponderemo a tutte le vostre domande. Iniziamo con Adriano. Buongiorno. Adriano, dobbiamo recuperarlo perché la qualità della telefonata non è professore, buona. Io volevo... Abbiamo detto che il laser ha una precisione molto raffinata e questa... capacità, questa precisione viene sfruttata per rimodellare la curvatura corneale, ma quale certezza si ha di poter abbandonare gli occhiali e soprattutto si potrebbe verificare un ritorno del vizio refrattivo, ad esempio della miopia, anche se di minore entità rispetto a prima dell'operazione? Sì, in parte sì, perché c'è come se due individui si ammalano di raffreddore, uno guarisce in 3 giorni, l'altro in 4 o 5, una variabilità nella risposta al trattamento esiste, però attenzione, non è tanto questo il punto, perché badate, quando la qualità ottica è migliorata, un piccolo difetto refrattivo, spesso residuo, consente di vedere in gran parte della giornata senza occhiali, in un modo completamente diverso, qualitativamente diverso. Però per far questo, tornando a prima, il trattamento che è fatto su misura, su quell'analisi, c'è anche un altro aspetto. Noi abbiamo pubblicato di recente un lavoro che, partendo dalla misura della curvatura locale che a ogni punto della cornea ha, abbiamo trovato una legge matematica che ci dice come l'organismo accetterà questa forma. Quindi non è soltanto progettarla, ma dire: ma questa forma che io ho progettato piacerà all'organismo e la lascerà così o la cambia? Perché se la cambia, quello che ho progettato non rimarrà, è come portato la sabbia dal vento, va via. E quindi quello su cui siamo, il passo successivo, fare tutti questi calcoli e poi ragionare: ma quanto resisterà questa forma sull'occhio? E voi quindi state lavorando in questa direzione. E già in anticipo, attraverso anche degli esami preventivi, voi siete in grado possiamo di capire? Dire, fin qui ci arriviamo, fin qua no, non conviene. Non, a volte conviene dire io ho tante diotene, correggo una parte perché se ne faccio di più per 3 mesi rimane, 4 mesi rimane e poi torniamo peggio di prima. Allora no. Deborah, naturalmente sottolineavo una domanda che l'età. Ritorna molto frequentemente, esatto. Cioè l'età, da che età sino a che età? Perché se c'è anche una data di inizio possibile? Da un certo punto di vista non c'è un'età per il laser del cime, perché dicevamo i trattamenti terapeutici li facciamo anche ai novantenni o oltre, quindi non c'è un limite di sopportazione, di opportunità sì, cioè io ho la cataratta e posso togliere quel difetto refrattivo con la cataratta, perché devo fargli anche il laser prima? E qua è un fatto di coscienza. Se un oculista comincia a vedere che il paziente sta sviluppando un'alterazione alla trasparenza, è inutile fargli due interventi che possono avere entrambi lo stesso scopo. Deve sapersi fermare, dirlo al paziente, essere trasparente e fermarsi. Però, d'altra parte, ci sono condizioni dove potrebbe valere. C'è un astigmatismo elevato e a volte si corregge in maniera otticamente migliore, perché quello poi lo possiamo correggere con la lente interna, ma se l'astigmatismo non è regolare il risultato ottico non è paragonabile. A proposito di cataratta, a cui dedicheremo una puntata ad hoc, perché io volevo anticipare, però, perché ci sono delle novità, perché il professor Vinci Guerra ha, posso dire, inventato una formula matematica. Ecco, lui da bambino si appassionava a formule, e meno male, perché adesso potrebbe sicuramente risolvere dei problemi che sino ad oggi non hanno trovato una soluzione, direi, cucita su misura. L'anticipiamo per poi tornarci. È una formula matematica che calcola quanto fuoco mi serve da lontano e quanto da vicino, in modo che con una lente unica possa vedere da lontano e da vicino. Quando io ci ho ragionato l'ho fatta su me stesso per vedere se era valida, e perché poi potevo essere giudice più, e dico vi si sta d'incanto, perché adesso non porto più occhiali né da lontano né da vicino, e senza avere una lente multifocale che dà in certe condizioni aloni o altro, e quindi un vantaggio, e ha più luce. Ha molta più luce disponibile una monofocale, quindi è una novità grande. È una novità grande di cui parleremo tra poco, così Deborah lo blindiamo, perché ecco, catturare il professor Vinci Guerra è un'impresa da cuore denari, perché bisogna essere molto brave. 800 24 00 24, dove andiamo? Andiamo, vediamo se Adriano d'Avellina adesso riusciamo a sentirlo. Chi è Ellen? Che cosa avevamo detto? Io ero Ellen. Io Alice. Ok, Alice, dove andiamo? A voi rifare oggi la performance. Adriano, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'intervento, per la possibilità di intervenire. Ci dica. Innanzitutto vi volevo fare i complimenti per la trasmissione. Grazie. E poi volevo porre un quesito al professore, se possibile. Certo, adesso che ci ha fatto i complimenti, sì, se ce li faceva cadeva la linea. Professore Vinci Guerra, stia pronto. Allora. Sono qua. Allora, innanzitutto volevo dire che ho 51 anni. Sono affetto da miopia fin da quando ero ragazzo, e attualmente porto lenti da 3,5 diotti per occhio. Ho anche un leggero astigmatismo di circa 1,25, sì, sempre per occhio, che però con l'età è stato corretto, viene sempre più corretto dalla presbiopia che sto sviluppando, per cui praticamente da vicino non riesco a leggere più, gli occhiali li devo togliere per poter leggere. Al contrario, da una distanza tipo dai 60 cm in poi ho bisogno di occhiali, altrimenti non vedo. Con le lenti progressive mi trovo malissimo, mi sto sempre a mettere a togliere gli occhiali a seconda se devo vedere i soggetti vicino oppure lontano, se devo leggere o se devo lavorare. Quindi la domandona... volevo sapere, la domandona è: con l'intervento posso sperare di risolvere il mio inconveniente? E buttare gli occhiali alle ortiche? Allora, Adriana, come lei sa, al telefono è impossibile risolvere problemi. Dobbiamo rispondere in generale a quello certo. che capita a condizioni simili. Allora, diciamo una cosa. Dal sintomo in cui mi dice non sopporto le lenti multifocali, ci sono due osservazioni. La prima è che le lenti multifocali su occhiale sono caratterizzate da qualità molto diverse sul mercato, anche se il prezzo finale all'utente può essere identico, ma ci sono lenti che hanno 400 variazioni per passare da lontano a vicino e alcune tedesche che ne hanno 460.000. Quindi la progressività le rende molto sopportabili, le une e malissimo le altre. Uno. Altre volte, se uno ha una cornea che non è perfettamente regolare, ma che ha aberrazioni di alto ordine, cioè delle imperfezioni, queste imperfezioni sommate alla multifocalità lo rendono poco sopportabile. Quindi qui questo è un altro, ancora bisogna fare un'analisi della qualità ottica per capire chi sopporta le lenti degli occhiali multifocali e chi no. In generale però il fatto che lei mi dica che ha questa presbiopia, cioè questa incapacità di vedere da vicino, già così giovane, potrebbe essere una correzione non ancora ottimizzata, perché insomma a 50 anni almeno 60 centimetri, uno dovrebbe 60 centimetri con una buona correzione dovrebbe farcela. Quindi merita di fare un esame dilatando la pupilla e facendo un esame approfondito di quanto ha. Allora, correzione laser però, sì, se gli esami sono idonei, si potrà pensare a fare con delle limitazioni che vanno illustrate poi al paziente. 800 24 00 24, presbiopia, non l'abbiamo inserita volutamente tra i difetti refrattivi, c'è una ragione. Voi dovete comporre il nostro numero verde, dirci se la ragione per cui non l'abbiamo messa, ci siamo sbagliati noi o invece, certo, insomma, perché, e naturalmente apriremo la nostra libreria di cuore denare. Intanto poi parleremo di selezione del paziente, perché, certo, ci sono delle indicazioni precise. Professor Vinci Guerra, io devo fare i mercati fra un attimo, ma Federico ci chiede, dopo l'operazione, magari quelle fatte da professor Vinci Guerra, si vede anche meglio negli investimenti finanziari? È capace di compiere anche questo salto di qualità? Io chiedo sempre che mi regalino una cosa, una bacchetta magica per guarire gli inguaribili, è questo. È in non c'è direzione. Ancora arrivato, ma chissà, insomma, nel futuro. Cuore e denari. Tutto cambierà, cambierà, sai che cambierà, cambierà, tutto cambierà. Eh sì, tutto cambia giorno dopo giorno, soprattutto in un mercato molto vivace che è quello delle valute, le divise, le monete. I rapporti di cambio fra le monete non sono solo questioni di economia astratta e teorica, ma influenzano, anche se a volte non ce ne accorgiamo, la vita dei cittadini. Ce ne parla anche il Sole 24 Ore, lo farà domani con il nuovo giornale della famiglia, con questa canzone di Neffa. Non facciamo però solo un gioco di parole, perché nel mondo dei cambi ci sono dei cambiamenti veri e propri in questi mesi. Le decisioni delle banche centrali, in particolar modo l'ultima importante della Banca Centrale Europea, arriveranno altre decisioni nel corso delle prossime settimane da parte della Federal Reserve, che è la banca centrale americana, le elezioni in Grecia, le decisioni dalla Svizzera che ha slegato il franco dall'euro. Di tutto questo parliamo tra poco nella pagina di Denari. Intanto cominciate già a fare le vostre domande all'800 24 00 24. A tra poco. Guardami negli occhi, ti sembro sempre quella che vuole ad ogni costo. E noi continuiamo a cercare di vederci chiaro, parliamo degli sviluppi, dell'evoluzione della chirurgia refrattiva che ha reso possibile, rende possibile oggi correzioni che un tempo non potevano essere fatte, quindi si è allargata la selezione del paziente, professor Vinci Guerra? Sì, perché questi strumenti hanno potenzialità di calcolo molto superiori e perché e questo per esempio ha consentito di rioperare quelli che un tempo non avevano avuto grandi risultati. Facciamo un esempio semplice, voi immaginate di guardare da un buco della serratura, attraverso quel buco vedete bene, sì, ma è una visione piccola, tubulare, che non è confortevole. Questa è un'esagerazione naturalmente, ma i laser, come si facevano 20-25 anni fa, dava una visione ottimizzata al centro e man mano che andava in periferia peggiorava. Quindi nelle giornate di sole a mezzogiorno ci vedeva bene, man mano che diventava buio, con la luce che scendeva, cominciavano gli aloni. Queste macchine oggi costruiscono sistemi sempre migliori in periferia e noi abbiamo aggiunto questo del sistema di calcolo di quello che sarà sopportato. Tutte queste cose messe insieme consentono di rioperare pazienti con vecchie tecniche, rimigliorando l'ottica, cioè non cambiamo più il risultato refrattivo che magari è già raggiunto, ma vogliamo aggiungete qualità, aggiungere alla la visione. Qualità. E spesso consumando poco tessuto, perché si va a togliere in periferia dove non è stato toccato, e quindi il consumo di tessuto è relativo. 800 24 0024. Ricordatevi anche il domandone sulla presbiopia. Eh sì, non pensiate che non ce la ricordiamo, perché se volete il libro qua bisogna sudarselo. Andiamo da Francesco. Ti piace? Mi piace. Francesco, da Milano, benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie anche a lei. Allora, io volevo porre al professore una questione. Io ho fatto un intervento LASIK nel 98 e avevo una forte miopia e un leggero astigmatismo. All'epoca avevo 8 diottrie e 7 occhio destro, occhio sinistro. Fatta l'operazione, il decorso normale, nessun tipo di infezione, niente di niente, e poi però vedevo che comunque il visus non migliorava. Anni dopo sono riuscito a scoprire che c'era stato un problema sull'occhio destro, nel senso che avevano fatto c'era stato un decentramento dell'operazione. Il professore che mi ha operato è defunto, quindi non sono più andato nello studio lì, e ho sentito un po' di studi oculistici che dicevano no, forse l'intervento non è il caso. Ultimamente, sempre qui a Milano, mi è stato proposto appunto un reintervento. Volevo capire dal professore quali erano i rischi, quali erano le possibilità di recupero, perché io adesso, man mano che avanzano gli anni, adesso ho 42 anni, però vedo che la capacità visiva peggiora costantemente. Grazie Francesco. Nella condizione di Francesco, professor Vinci Guerra, sembrano esserci tante persone che stanno scrivendo al 349-238-6666. Chi lamenta gli aloni, chi dice in effetti poi qualcosa è cambiato, pensavo di non dovermi mettere gli occhiali, invece gli occhiali li devo mettere. Insomma, si doveva aspettare un po'. Di quegli argomenti prima abbiamo parlato, che senza questi calcoli un tempo non si sapeva mantenere il risultato. Ma torniamo adesso, il decentramento. Il decentramento affronta, e naturalmente non possiamo risolvere per telefono il problema, certo, ma però diciamo che le regole generali sono queste. I sistemi che spesso non inseguivano l'occhio, i sistemi che inseguivano l'occhio per allineare il laser sull'occhio erano molto primitivi, seguivano la pupilla mentre noi dovremmo seguire l'asse visivo, e queste sono novità recenti. Quindi quando c'era una discrepanza fra la posizione di queste cose importanti, il laser dava l'assenso e poi il risultato non era buono. Ora non è più così. Il problema però mi sembra un po' più complesso da quello che descrive, perché la cattiva qualità dovrebbe essere costante nel tempo, una volta ottenuto. Quindi se cambia ci sono altri fattori che vanno esaminati, quindi nel suo caso vanno esaminati tutti i fattori. Non dobbiamo innamorarci di una cosa perché è quella più evidente, perché uno vuole guarire integralmente. Quindi uno deve vedere tutti gli elementi e non trascurare nessuno. È un lavoro da cacciatore quasi il nostro. Uno deve stare in silenzio, osservare, pensare, cioè non è una cosa così semplice. Il reintervento, adesso voglio rispondere a un'altra cosa, dice pareri discordi, il reintervento su una LASIK di un decentramento è il sesto grado della nostra chirurgia, quindi non tutti lo vogliono affrontare, preferiscono dire ma aspettiamo, vediamo, perché è un intervento complesso, difficile, con dei rischi. Cosa vuol dire il sesto grado? È un, come in montagna, come no? montagna che uno scala... no? È molto difficile, non è una passeggiata, è un'arrampicatona, diciamo così, è una strada quindi... in salita. E quindi diventa qualcosa che non tutti si sentono ad affrontare, e quindi può trovare pareri discordi. Alla base però, facciamo un esempio pratico, le immagini adesso di avere un libro. La LASI cosa faceva? Lei apre un terzo del libro, questa è la parte del flap. Sì. Quello è lo spessore dedicato allo sportello che si apre e si chiude sopra. A quel punto io devo strappare le pagine centrali, quelle pagine mi servono per correggere la miopia. Poi io richiudo la copertina sopra e il libro è diventato più sottile. Più sottile. Ma la parte che tiene insieme tutto è quella profonda, perché quello sportello che c'è appoggiato sopra, come nel libro, lo posso aprire anche 20 anni dopo, lo posso sollevare, quindi strutturalmente non conta più niente. Allora, quando si pensa a rioperare una LASIK, uno deve capire quanto, con microscopio, con focale ed altro, quanto ho di tessuto integro da lasciare. E a quel punto bisogna invertire le cose, cioè bisogna andare a lavorare sul flap, quello che non ha struttura, e lasciare stare quella profonda che non ha integrità. È una cosa un po' complessa, però diciamo dobbiamo sempre pensare a lasciare un occhio integro. cioè con una resistenza meccanica significativa, se no otteniamo un'ottima ottica, ma l'ho indebolito così tanto che poi si deforma perché meccanicamente non resiste. Il nostro domandone risulta molto difficile ai nostri ascoltatori. 800 24 00 24, vi invitiamo a dirci perché non abbiamo inserito la presbiopia nei difetti refrattivi. Che cos'ha di diverso dalla miopia? Forse Sonia da Prato ha risposto, adesso te la mostro la risposta, poi magari valuti. Intanto se... abbiamo parlato di questa chirurgia che diventa sempre più raffinata e quindi dà garanzie, no, di successo, però anche il paziente deve fare la sua parte. È una cosa che voglio raccontare ai nostri ascoltatori, perché ritorna ancora sull'importanza dello stile alimentare. Voi avete dimostrato che carenze di determinati aminoacidi dovute a squilibri alimentari possono ritardare i processi riparativi dopo gli interventi, e per questo consigliate ai vostri pazienti di assumere queste sostanze prima di sottoporsi all'intervento. Mi piace dare questa indicazione, certo, perché pochi la conoscono, anche perché esce proprio dagli studi dell'equipe del professor Vinci Guerra. Quindi siete in procinto di affrontare un intervento non solamente di oculistico, vero professore? Sì. Ma in modo particolare lo studio è stato fatto su quelli degli interventi di chirurgia refrattiva. Attenti a ciò che mangiate, perché professore? Ma noi abbiamo pubblicato due studi. Voi pensate che la somministrazione di queste sostanze funzionava anche in corne estratte, cioè in banca, cioè ormai estratte dall'organismo, ma addizionando questi elementi le cellule ancora vive nelle corne spiantate ricominciavano a proliferare. L'abbiamo misurato sia nei viventi sia in corne di banca, quindi è molto efficace. E noi dobbiamo sempre più pensare che la chirurgia è una chirurgia olistica, cioè che vede tutto, non è che può fare solo meccanicamente, se no si torna come i barbieri dell'Ottocento, no? Che erano ottimi manualmente ma non avevano la visione della scienza. La medicina chirurgia è medicina, ma è medicina anche sapere come l'organismo reagirà biochimicamente e aiutarlo in quello di cui avrà bisogno. Il risultato buono è la somma di tanti elementi, non è un singolo elemento. Allora, forse ce l'abbiamo fatta, sentiamo. Sonia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Nicoletta. Mi dia una bella soddisfazione, Sonia. La sento sempre, complimenti. Grazie, anche Debora, eh? Anche Debora, senz'altro, tutte e due, complimenti. Grazie. Sonia, allora, mi dica della presbiopia, perché non l'abbiamo inserita nell'elenco dei difetti refrattivi? Allora, secondo me è una cosa fisiologica dopo una certa età, dopo circa i 40 anni. Brava. È proprio fisiologico. Quindi non è... Bravissima Sonia, un libro di cuore o di denari? Di cuore. Di cuore, allora arriva Sonia. Sì. Professor Vinci Guerra, abbiamo detto bene, vero? Ho detto bene perché questo è determinato dal fatto che il cristallino, che è la lente che c'è dentro l'occhio, che è elastica e quindi cambia forma per farci mettere a fuoco da lontano o da vicino, con gli anni si rigidisce. Quindi quando noi correggiamo un difetto non possiamo cambiare l'elasticità del cristallino, ma ci sono altre strade, ne parleremo un'altra volta. Alla proscena, allora, adesso arrivano i messaggi al 349-238-6666 e tutti sapevano la risposta, però è Sonia che ci ha dato, ci è arrivata che per tardi prima. Tardi arriva, male alloggio, ma insomma bravi lo stesso, ma perché nel caso non avevano avuto suggerimenti. Ormai sappiamo come vederci chiaro e quindi non resta che accompagnarci nella seconda parte della trasmissione. Vediamo se abbiamo Benissimo. L'occhio giusto. Esatto. E se adesso con tutti questi suggerimenti impareremo, potremo anche vedere un po' meglio nel mercato degli investimenti, nel mondo degli investimenti finanziari. Professor Vinci Guerra torna. Grazie. Presto, sì. Cataratta, tutte le novità. Robotizzata. Là. Grazie professore, alla prossima. A tra poco. Cuore e denari. Pure a te così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti e l'altra per sparire. Una monetina a te, una te, un'altra. Abbiamo ripreso da qualche settimana a seguire con un po' più di frequenza, forse nei mesi passati, lo scenario dei mercati finanziari, perché i motivi di fermento sono parecchi, i piccoli risparmiatori vanno aiutati a decifrare le notizie che continuano a condizionare le giornate di borsa e quindi un po' anche le nostre giornate. Domani abbiamo il nostro giovedì di Investire Informati, ma oggi abbiamo anche le anticipazioni del giornale della famiglia, la nuova iniziativa del Sole 24 Ore partita settimana scorsa. Il tema che è stato approfondito nel primo numero e quindi anche nella nostra prima puntata è stato la deflazione, perché i prezzi che continuano a scendere non sono proprio una buona notizia, tanto che la Banca Centrale Europea vuole combattere questo fenomeno. E tra l'altro un aspetto molto interessante sul quale ci eravamo soffermati, che poi in realtà tra le persone la percezione è molto contraria, hanno la sensazione di non riuscire mai, non arrivano alla fine del mese, hanno la sensazione che vanno al mercato, al supermercato e che tutto costi di più, per cui davvero temi che hanno un impatto non solo economico ma anche psicologico ed emotivo molto interessante. Oggi tocca ad un altro tema che può sembrare lontano da noi, invece ci tocca, e come, parliamo delle valute, del mercato dei cambi che sta manifestando molto movimento e quindi incide magari anche sulle nostre scelte di risparmio senza che ce ne accorgiamo subito. Insomma, è ripartito il grande domino delle valute nel mondo. Che effetto ha tutto questo fra di noi? Paolo Zucca del Sole 24 Ore, benvenuto. Buongiorno a voi. E benvenuto anche a Gabriele Vedani, Managing Director di FXCM Italia. Poi spiegheremo bene che cosa fa questa società. Vedani, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. 800 24 00 24, naturalmente, è il numero verde a vostra disposizione. Il giornale della famiglia domani proverà a rispondere a molte domande e ci proveremo anche noi oggi. Perché il cambio è così importante? Da quali fattori può essere influenzato? Cosa succede per il risparmiatore? Potete usare il numero verde naturalmente per le vostre domande, se il mercato valutario è di vostro interesse e se avete domande sulle tendenze più interessanti del momento. Allora Paolo Zucca, comincio con te, perché le firme della squadra di Plus 24 saranno fra quelle che domani commenteranno questo argomento nel giornale della famiglia. Noi, anche io, quando racconto come sta andando la borsa, mi soffermo quasi esclusivamente tutti i giorni sul rapporto euro-dollaro, no? Perché a noi interessa particolarmente questo cross? Bisogna ragionare globale. Quindi oggi ragioniamo un po' di l'Italia, l'euro e il mondo, perché vuol dire trattare il rapporto della nostra valuta, la valuta europea, con il mondo intero. Dei paesi più vicini, franco-svizzero, a quelli medio vicini come la Gran Bretagna, e ovviamente però ci sono valute in tutto il mondo, soprattutto gli Stati Uniti, tutto il mondo asiatico. E uno potrebbe dire, vabbè, è a noi che ci cambia, no? Cosa ci cambia nella vita? Allora proviamo a ragionare un po' da risparmiatori, ma anche da viaggiatori o da genitori con i figli che fanno l'Erasmus, o da imprenditori se abbiamo delle attività imprenditoriali. Ebbene, il cambio, che può sembrare un argomento molto freddo, molto algido, in verità tocca tutti noi. Ad esempio, facciamo un esempio, uno facile, Londra. Londra da turisti, Londra da studenti. Beh, noi portavamo 100 euro o un posto di cambio, una banca, ma anche nei tanti baracchini che ci sono a Londra per strada, e fino a 2-3 anni fa ottenevamo 85 pounds. Adesso, ai dati di questa mattina, vediamo di non sbagliare, ma mi pare che sia 74. Quindi un po' meno. Allora, tenendo presente che Londra è carissima, è stracara, sì, che tutti ci vogliono andare, adulti e giovani, soprattutto i giovani, cambiare 100 euro in 75 pound o 85 pound vuol dire naturalmente avere una differenza significativa. In questo caso stiamo parlando di viaggiatori e di studenti. Se ci allarghiamo agli imprenditori, vuol dire avere in qualche caso maggiori possibilità di esportazione, se la valuta viene in questo momento è bassa, come sta indebolendosi l'euro. Può avere dei problemi di esportazione invece se la valuta è molto alta e quindi molto cara per chi compra. Non è facile, diciamo, sintetizzare un po' questo aspetto del cambio. Però è stato molto chiaro. Hai fatto degli esempi che veramente sono, immagino, andati. Io mi sono proprio vista lì a Londra con i miei 100 euro. Ti sei vista nei baracchini con 100 euro e hai detto, ma come? Magari ne davano anche 73. Poi senza andare a Londra ci basta dover fare un viaggio anche temporaneo. In realtà molto spesso magari non riusciamo a cambiare il nostro denaro nella nostra banca di fiducia, con la quale anche possiamo un pochino risparmiare sulle commissioni. Questo cambio lo facciamo a vari punti di cambio degli aeroporti e ci costa un po' di più, però poi siamo molto attenti a controllare quali sono i cross del momento, no? Per cui in realtà ecco che, a prescindere dagli investimenti, forse è proprio nella vita quotidiana che pensiamo questi temi... Pensiamo ai frontalieri, o chi ha molto contatto con la Svizzera, cosa è capitato con la decisione della Banca Nazionale Svizzera di slegare il rapporto con l'euro, ma forse infatti di questo parleremo più tardi. Parleremo più avanti. Allora, dottor Vedani, il 22 gennaio la Banca Centrale Europea ha annunciato annunciato questo maxi piano per immettere liquidità nell'economia dell'Eurozona al ritmo di 60 miliardi al mese. Comincerà a marzo a fare questi acquisti. Sulla base di questa decisione, immediatamente l'euro ha preso a scendere sul dollaro. Io vedo proprio davanti a me il grafico di quello che è successo nelle ultime settimane e il minimo di questo rapporto di cambio 1,1198 è stato toccato proprio il 23 gennaio, cioè il giorno successivo a questa decisione. Poi è risalito, ci si è messa un po' di mezzo anche la crisi greca ad innervosire questo rapporto, ma non solo. Secondo voi operatori del settore, in questa ricerca di guadagnare competitività sul dollaro, abbiamo già visto tutto quello che dovevamo vedere? Questa discesa era quella che ci si aspettava o l'euro poteva andare ancora un pochino più in giù? Ma assolutamente penso che la strada sia ancora lunga al ribasso per l'euro, e questo deriva non solo dal fatto che banalizzando la Banca Centrale Europea ha aumentato l'offerta di euro e quindi per la tipica legge della domanda e offerta, più offerta di un bene c'è, minore è il valore che viene associato a questo bene stesso. L'altro fattore, dato che stiamo parlando di euro-dollaro sul mercato delle valute, un'altra particolarità rispetto a tutti gli altri mercati è che non si compra o si vende un bene, ma si fa sostanzialmente un baratto, uno scambio. Infatti parliamo di cambio dell'euro nei confronti del dollaro, no? L'altro fattore di questo rapporto di cambio è il dollaro. In realtà allo stesso momento sta esattamente avendo dalla parte della Federal Reserve, che è la banca centrale appunto americana. Delle spinte completamente opposte. Quindi mentre la Banca Centrale Europea sta iniettando liquidità, la Federal Reserve sta progressivamente facendo quello che in gergo viene chiamato tapering, che è esattamente l'operazione di invece drenaggio di liquidità, e quindi questi due fattori sicuramente porteranno a un aumento di disponibilità da una parte, l'euro, una minor disponibilità di dollari dall'altra, e quindi riteniamo che lo spazio per proseguire in questo trend ribassista, che in realtà è cominciato alla fine della primavera del 2014, quando appunto la banca potrebbe continuare. La interrompo, Vedani, perché devo dare la linea al giornale radio, ma poi la lascio argomentare subito dopo e invito gli ascoltatori a naturalmente raccontarci che cosa pensano di tutto questo e quanto tengono in considerazione il cambio quando fanno scelte di risparmio ed investimento. Cuore e denari. Chissà se i nostri ascoltatori lo riconoscono. Allora, ci siamo inventate a microfoni spenti tante domandone per i nostri ascoltatori. Sai che ti dico? Che faccio pure questa. Che inno nazionale è questo? Lo riconosceranno, facciamolo riascoltare un attimo. Un aiutino possiamo darlo, stiamo parlando di valute, divise, monete stamattina, e quella di riferimento di questo inno nazionale è stata molto movimentata nelle ultime settimane da un fatto di cronaca estremamente rilevante. Gabriele Vedani, lei l'ha riconosciuto? No. Benissimo, allora abbiamo colto di sorpresa anche Paolo Zucca, che pur avendo la scaletta sotto gli occhi è stato bravo, non ha neanche letto, quindi benissimo. Però la sa e può dare un aiutino. Quindi potrebbe essere Svizzera. È un paese. Ma avevo fatto il domandone agli ascoltatori. Potrebbe. Vediamo se gli ascoltatori si cimentano nella risposta. Però ce ne siamo inventate ancora un altro paio di domande. Vedi, nel tempo del GR. Esattamente. Allora, cucine di idee. La prima idea brillante che ci è venuta era stata quella di chiedere ai nostri ascoltatori se avessero così seduta stante il nome di due monete che iniziassero naturalmente con C e D, cuore e denari. Poi abbiamo detto è troppo semplice. Troppo semplice con dollaro, tante non ce ne sono veramente in giro. Noi con non la ci siamo arrivati esatto. Subito a dollaro. Però se ne volete dire una con la C a noi fa piacere, ma il domandone vero per guadagnarvi il diritto ad arricchire la vostra libreria è: queste due monete che adesso vi diamo, di che nazionalità sono? Uno, il real, due, il rand. 800 24 00 24 per dircelo, per candidarvi alla risposta. Naturalmente. E noi valuteremo le vostre risposte. Esatto. Quante domande le abbiamo tempestate in questa interrogazione. Bene. Per prepararvi meglio, domani potete prendervi la guida per la famiglia del Sole 24 Ore, tutta dedicata al mercato valutario, un mercato complicato nel quale molti, peraltro, proprio per così anche cercare di guadagnare velocemente, si candidano anche ad investire, non ne conoscono bene la dinamica e sono vedani, mercati molto volatili, da prendere un pochino con le pinze e magari qualche volta lasciare anche agli investitori professionali, ai trader, no? Quali sono i rischi di questo mercato? Il mercato di riferimento delle valute è il Forex. Ma il mercato in sé non è estremamente volatile, voglio dire, non è più volatile del mercato azionario. Quindi il problema è più che altro sul fatto che la maggior parte degli operatori su questo mercato operano con un effetto di leva, similarmente a quello che avviene sui mercati future. Ed è qui che si possono creare, amplificare un po' gli effetti. Esattamente. Allora, se avete anche delle curiosità sul funzionamento del Forex, per quello che potremmo riuscire a fare entro le 12.30, scriveteci o anzi chiamateci all'800 24 00 24, scriveteci al 349 238 6666. Con noi stamattina, lo avete sentito, c'è anche Paolo Zucca, al quale chiedo quanto, secondo anche l'esperienza fatta da Plus, che ha in questi anni analizzato molto spesso questo mercato, quanto deve essere tenuto in considerazione il cambio quando si fanno delle scelte di investimento, perché molto spesso ci si può esporre a rischio cambio per prenderne delle opportunità. In altri casi, per esempio, quando si fa anche una sottoscrizione di un fondo di investimento molto diversificato, qualcuno suggerisce proteggiti dal rischio cambio proprio per evitare che questo fondo magari abbia delle prestazioni molto, molto variabili, molto volatili. Paolo. Beh, l'hai già detto tu, c'è un'opportunità e c'è anche un rischio, frase forse banale. L'opportunità è di dare un po' più di carburante, un po' più di spinta ai tuoi investimenti. Il rischio è che hai un elemento da valutare in più. Quindi devi tenere presente che se tu hai un 3% su un titolo governativo che espresso in un'altra valuta, questo ti può essere mangiato da un cambio sfavorevole, perché tu parti da euro, o può essere anche un vantaggio. È stato un vantaggio, ad esempio, in questi mesi con il dollaro. Tutti abbiamo scritto per anni che l'euro era troppo forte rispetto al dollaro. Chi ha investito in questi anni in valuta statunitense, cioè in dollari, ha guadagnato l'interesse dell'obbligazione, ma anche la rivalutazione della propria, del proprio investimento. Quindi sono tante le domande, io ne avevo una per Gaia, ma non so se si può fare, per cui è meglio avere un fidanzato in euro o in valuta, o comunque quali sono gli elementi da tenere presente? È meglio avere un fidanzato in euro o in valuta? Prima tu dici, perché due cuori e una capanna, poi possibilmente che sia vicino, quindi se lo teniamo vicino il problema non Svizzero, esiste, insomma. Ma se abbiamo un fidanzato a Miami facciamolo venire qua. No? Esatto, ecco. Esatto, bravissima. Ecco. Era meglio per noi andare a Miami a trovare il fidanzato o la fidanzata quando l'euro era forte. Adesso invece paga meno. Devo dire che il mio viaggio americano di fine ottobre, infatti, è stato un po' più conveniente se non andare. Non so se stiamo calando troppo nel vissuto questo problema dei cambi. Però il tema è proprio questo, è che in realtà molto spesso queste dinamiche così lontane da noi, poi in realtà improvvisamente ci accorgiamo, magari solo banalmente facendo un viaggio, che ci interessano. E come, per cui se in prospettiva quest'anno avete in mente anche, più che di fare un investimento, di fare un viaggio in una località che è condizionata dall'andamento molto volatile delle divise, raccontatecelo all'800 24 00 24. Intanto sentiamo Paolo, che ci chiama dalla provincia di Forlì Cesena. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, buongiorno. A che cosa vuole rispondere? Vedo un po' dunque, tutto. È l'inno russo, chiaramente. E la moneta, tra l'altro, che era sotto pressione era il rublo. Invece le due monete del Brasile e del il real è la moneta del Brasile e il rand è la moneta del rand sudafricano. Sì. Sudafricano. Allora Paolo, ok, sì. Per la seconda parte della risposta, ha sbagliato l'inno. però aveva già tutto talmente un percorso legato che secondo me infatti, ha vinto per me. Ma certo, ma se non altro premiamo la anche perché l'inno non è proprio come dire così familiare che lo ascoltiamo in radio tutti i giorni, per cui ma forse mi è piaciuto neanche perché l'ha legato Rubio, cioè, aveva un suo perché, come però si dice, Paolo non è. In ogni caso grazie per la sua telefonata, le manderemo il libro lo stesso. Real e Rand, Gabriele Vedani, queste due monete che tipo di andamento stanno manifestando in questo periodo? Sono legate a paesi che vivono una situazione politica, particolarmente il Brasile, sempre un po' movimentata, no? E questo naturalmente si ripercuote anche sull'andamento rispetto alle altre divise della valuta di riferimento. Oggi che situazione hanno questi due paesi? Innanzitutto queste due monete, come tutte le altre monete dei paesi diciamo in via di sviluppo o comunque periferici, soffrono moltissimo in periodi di forte incertezza. E quindi questo ovviamente è proprio il periodo che stiamo vivendo, vediamo l'incertezza politica all'interno dell'area Europa con la crisi greca e purtroppo ci sono anche forti tensioni geopolitiche con la crisi libica. Adesso io stavo pensando già alla Libia e a quanto questa eventualmente potesse disturbare tutto il resto, però giustamente lei è andato nell'area russa e quindi? E quindi sono assolutamente sulla difensiva, perché sono monete che normalmente vale sia per il real che per il rand che per altre monete diciamo di paesi in via di sviluppo, sono monete che normalmente offrono tassi di interesse più accattivanti e quindi certo, rendimenti più alti, quindi sono preferiti dagli investitori, quando però soffrono molto quando c'è incertezza, perché normalmente gli investitori tornano su quelle valute che sono considerate un po' dei beni rifugio, quindi normalmente il dollaro è il principe in queste situazioni, ma anche valute di aree che sono geograficamente più isolate. L'esempio classico è quello dello yen giapponese. Ah, anche lo yen è considerato quindi una divisa rifugio? Assolutamente sì, lo è storicamente da sempre. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre osservazioni, domande e ancora risposte sul tema dell'inno che abbiamo ascoltato. Si candida Laura da Rimini. Laura, benvenuta. Grazie, buongiorno a voi. Che inno abbiamo? Abbiamo ascoltato? Sì, e io secondo me è l'inno inglese. Niente, non è God Save the Queen, Laura? È ci vicino, dispiace? Laura, io le ho detto, è vicino a noi. È un po' più vicino a noi, Laura, pensi un po', è incredibile a dirsi, eppure è così. Comunque grazie per essersi candidata, io quasi quasi, se non altro per averci provato un libro, certo, glielo manderei lo stesso. Magari la guida di converrebbe domani. Converrebbe avere un fidanzato lì? In Svizzera? In Gran Bretagna, beh, con il pound che adesso si sta sempre beh, di sì, più. Sì, sì, diciamo che più l'euro si indebolisce, più è meglio avere dei fidanzati extra confine, extra valuta euro, eccetera. Insomma. Vedi, è un consiglio alla quale denari, vedi? Questo. Sì, è un po' di convenienza. Allora, non è neanche l'inno greco, segnalo a Maria da Genova che ci scrive al 349-238-6666. Allora, vogliamo fare un po' più nel dettaglio, oltre a averlo descritto, dottor Vedani, come moneta rifugio, un punto sullo yen giapponese. Anche dal Giappone con l'Abenomics si è tentato di fare una politica di svalutazione della moneta molto importante, con una iniziativa di politica monetaria lo scorso anno estremamente dirompente, che non si è fermata, naturalmente non si è limitata solo a quello. Eppure qualcuno dice che comunque gli effetti che la banca centrale giapponese, il governo auspicavano, non si sono ancora visti del tutto, non sono ancora arrivati ad essere quelli auspicati. Ci spiega un po' perché? Volentieri, quante ore ho? Ah, no. Tre minuti, due minuti. Benissimo, no, sicuramente è vero, i giapponesi sono stati i secondi dopo gli Stati Uniti a fare questi quantitative easing, che è appunto questa iniezione di liquidità che anche la BCE ha ora introdotto. In maniera molto importante, parliamo di circa il controvalore di 50 miliardi di euro al mese, e quindi relativamente ai 60 miliardi che fa la BCE, considerato la dimensione relativa dell'economia europea nel suo complesso rispetto a quella giapponese, è un investimento molto importante quello che sta facendo la Bank of Japan. Tant'è vero che il proprio bilancio, cioè il totale di asset che sono in pancia alla banca centrale giapponese, è ormai praticamente al 50% del totale del PIL del Giappone, quindi una cosa abnorme. Perché non ha avuto gli effetti desiderati? Per due fattori, banalizzando e sintetizzando. Il primo è che comunque ci sono state delle revisioni fiscali che hanno imposto nuove tasse sui consumi, che hanno in qualche modo depresso o svilito gli effetti di questa manovra sul, appunto, ripresa della dinamica della domanda interna. E l'altro fattore è quello che sui libri di scuola avevamo studiato come trappola della liquidità di Keynes, cioè il fatto che il Giappone, considerate che prima con la ZIRP, cioè Zero Interest Rate Policy, poi con l'immissione di liquidità, poi con la Abenomics, quindi questo quantitative easing, sostanzialmente si limiti un po' con il gergo, con il gergo finanziario stretto, dottor Vedani, perché noi dobbiamo parlare proprio come se parlassimo alle nostre mamme che magari fanno la spesa e non sono molto interessate allo yen o alle dinamiche del quantitative easing. Sì, quindi politica è tanti anni che hanno una politica a tassi zero, estremamente con emissioni espansiva, diciamo, ecco, esattamente. E quindi sostanzialmente a lungo andare questo non ha più effetto, come se il mercato si fosse in qualche modo abituato. Però, insomma, per gli appassionati che volessero approfondire proprio il tema della trappola della liquidità che i grandi economisti studiano e spiegano a studenti e tentano di farlo qualche volta anche con noi. Allora, ritorniamo al nostro inno, intanto rapidamente sentiamo Se lo sa Maria Teresa da Milano. Chissà chi lo sa. C'è un ascoltatore che scrive, è il nostro. Non credo. Almeno quello lo conosciamo, santo cielo. Dipende da dove, da dove ci chiami, allora, da dove ci scrivi. Prima ascoltiamo Maria Teresa. Sì, buongiorno. Potrebbe essere l'inno del Principato di Monaco? No, non so. No, direi di no, Maria Teresa. Ma hanno addirittura un inno a sé stante? Ci mancherebbe. Monte Carlo. Io neanche lo sapevo. Non vedi mai il Gran Premio? Non vedo mai il Gran Premio, si è capito. No, niente da fare, Maria Teresa. Comunque grazie per aver chiamato. Andiamo ad Enrico da Torino? Sì, buongiorno. Pronto? Enrico. Pronto, buongiorno. Enrico, sì. Senta, dunque, a me pare l'inno greco. Cos'è che le fa pensare, Enrico? Ma dunque, allora, io ho a che fare con una memoria uditiva, professionalmente sono quasi tecnico del suono, mi sembra di averlo sentito una volta recentemente in un passaggio di cronaca televisiva sul giornale. Enrico, in realtà poi prima l'avevamo anche detto, perché ce l'avevano anche scritto tra gli SMS, purtroppo non è neanche quello greco, però visto che siamo così tanto appassionati, almeno parlo per me, di Varoufakis, forse dovremmo anche documentarci un po' meglio sull'inno greco. Lo stiamo riascoltando intanto, sì, Filippo. Un po' per Enrico che esatto, visto che da due giorni ci stiamo cimentando con canzoni e quant'altro, oggi continuiamo su questa scia. Carlo dalla provincia di Varese, ci venga in soccorso, lei che mi pare che lo sappia. Non sono il 118, per me è l'inno della Confederazione Elvetica. Finalmente, dai. Sul finire ci siamo arrivati, proprio gli ultimi 30 secondi li possiamo dedicare allora ad un commento, ad un effetto, se ancora c'è, di questa decisione della Banca Centrale Svizzera di qualche settimana fa, di gennaio, di svincolare, di chiudere, di interrompere questo cambio fisso tra euro e franco a 1,20, fermo lì da 3 anni. Gabriele Vedani, un ultimo commento lo assegno a lei prima dei saluti. Che effetto ha avuto questa decisione? Diciamo dirompente è dir poco. Si è assestato adesso il cambio con tutti gli effetti anche sulle società svizzere che esportano molto e che hanno risentito parecchio di quella decisione del tutto inattesa da parte della Banca Centrale Svizzera. Sì, il mercato non solo si sta assestando, giusto per spiegare agli ascoltatori, immediatamente dopo la decisione il cambio dell'euro è sceso da 1,20 fino a 0,95 in pochissimi minuti, quindi esatto. Considerando che stiamo parlando di due valute tra quelle del G8, è un movimento assolutamente incredibile, mai registrato prima. Poi pian pianino nelle giornate successive c'è prima stata una fase di stabilizzazione e poi il trend ha ripreso al rialzo e oggi siamo all'incirca 1,07. Considerando proprio le difficoltà dell'export svizzero a causa di questa rivalutazione del cambio e anche gli accordi bilaterali fiscali che la Svizzera sta chiudendo con alcuni paesi, che avranno un impatto molto forte su uno dei settori trainanti della Confederazione Elvetica, sì, che è quello veloce, bancario. Veloce, che dobbiamo salutarci. Probabilmente si tornerà in fretta a 1.20, grazie. Allora, tra l'altro, volevo solo ricordare che FXCM, la società appunto di cui è Managing Director Gabriele Vedani, a fronte della notizia della decisione della Banca Centrale Svizzera, ha addirittura fatto questo intervento pazzesco, compensando, neutralizzando le perdite dei clienti che avevano appunto subito con questa decisione. Magari ne parliamo un'altra volta. Grazie anche a Paolo Zucca. Grazie a voi. Grazie a Gabriele Vedani. Domani c'è il giornale della famiglia dedicato alle valute e noi Quindi domani torniamo. Quindi andate in edicola e noi torniamo qui ad aspettarvi. Buona giornata.